e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti. Siamo in diretta a Facebook e lo diciamo e lo sottolineiamo. Oggi perché mi sono truccata per la serenità dei nostri ascoltatori. Allora, andiamo. Vuoi sapere di che cosa parlo? Molto volentieri. Allora, anche se già ho intuito qualche cosina. Perché l'hai visto. Perché è qua con noi finalmente. Allora, per anticiparvi il tema di oggi, per la pagina di cuore bastano due parole, anzi due valori, 120-80. Saranno quelli giusti? Aggiungo un nome, quello del professor Claudio Borghi, che potete vedere qui nel nostro studio, in diretta Facebook. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, un grande piacere. Membro del consiglio direttivo della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa e molto amico di Cuore Denari. Sì. Moltissimo. Ecco, moltissimo. Io ormai la qualifica è questa, amico di Cuore Denari. Certo. Saltiamo tutte adesso le altre. Adesso nella laurea i medici mettono anche questo. Certo. Se siete amici di Cuore Denari vi diamo qualche punteggio in più. L'ho già inserito nel curriculum. Ha fatto bene. Bravo. Per i denari invece parleremo di ferie. Molti italiani sono già pronti a partire. Ma tu pensa, Nicoletta, che anche quest'anno abbiamo rilevato che molte famiglie e molte persone chiedono un prestito per andare in vacanza e quindi vi racconteremo come si declina anche questa novità in questa estate 2017. Poi è molto ricco anche il mercato delle assicurazioni per gli animali. Per quello che riguarda poi l'approfondimento, dalle 11.30 in avanti parleremo di libretti di risparmio al portatore che dal 4 luglio non è che vanno in vacanza, vanno proprio in pensione. Quindi possiamo partire. Andiamo allora. Allora, per quello che riguarda i mercati, naturalmente anche oggi dobbiamo così fare i conti sui postumi del provvedimento del weekend con cui lo Stato, con questo intervento congiunto con Banca Intesa San Paolo, hanno praticamente salvato le due banche venete, Pop Vicenza e Veneto Banca. Ieri il mercato ha letteralmente brindato, non solo in Italia, ma in realtà a quanto pare anche molti commentatori e analisti a Wall Street hanno guardato a questa importante novità che è arrivata da l'Italia, ma che ha avuto naturalmente anche ricadute nel settore finanziario a livello internazionale. Milano stamattina sta perdendo 0,5%, quindi dopo i rialzi di ieri qualche presa di profitto arriva, ma non arriva sul settore bancario, perché sta andando piuttosto bene anche stamattina, a cominciare dalla stessa Intesa San Paolo, che guadagna lo 0,52%. Non è il miglior titolo, c'è STM in rialzo dell'1,31%, UBI Banca più 0,97% e Popolare dell'Emilia Romagna più 0,6%, mentre tra i cali più significativi riscontriamo quello di Exor, Brembo e Recordati, che perdono oltre 1,5%. L'euro risale in maniera molto vivace sopra 1,12 sul dollaro, addirittura siamo a 1,1240. Il petrolio $46 a Londra, $43.70 a New York. E oggi abbiamo in programma un'asta del Tesoro italiano che mette sul mercato CTZ e BTP indicizzati all'inflazione per 3,5 miliardi di euro. E poi ci sono anche numerose dichiarazioni di Mario Draghi che stanno arrivando in questo momento. Oggi c'è il forum delle banche centrali a Sintra in Portogallo. Draghi sta dicendo: siamo sulla politica monetaria, ha detto, dobbiamo ancora essere persistenti e prudenti. Dopo la nostra consueta occhiata ai mercati, andiamo avanti invece con la rassegna stampa di denari, che oggi ci porta, come vi anticipavo poco fa, a parlare di ferie. Perché si avvicinano, perché si concretizzano per molti proprio nel mese di giugno o di luglio, per altri ormai è partito il conto alla rovescia in vista del mese di agosto. Parlando di ferie, non possiamo non considerare che le ferie, che sicuramente fanno bene, Nicoletta, alla salute, le guardiamo proprio adesso con potremmo anche con farci un certo dare desiderio. Un aiuto dal professor Borghi, sì, per capire dove andare in vacanza, quale destinazione per scegliere, per la pressione, dici anche. Sì, per in genere per la nostra salute, soprattutto per chi ha magari la pressione alta, ha avuto problemi cardiovascolari, chissà, io la butto lì, se volete un'indicazione facciamo aiutare anche dal professor Borghi. Certo che non ha avuto tanti sbalzi di pressione chi ha deciso di indebitarsi addirittura, no, per così andare in vacanza. Sì, hai fatto la faccia giusta, perché quello che penso anch'io, in realtà non so se farei con un po' di dubbio, insomma, questo atteggiamento. Magari qualcuno ha del risparmio e dice: per non prenderlo faccio il prestito e poi lo restituisco con calma, quindi non mi tolgo tutto. Però non lo so, questa è un'indagine chiara che c'è, è stata condotta da Facile.it e noi ci facciamo raccontare tutto da un altro grande amico di Cuore Denari, che è Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it. Andrea, ciao, benvenuto. Grazie mille, ben trovati a voi. Non è che sei triste perché abbiamo dato questo giudizio sul tema del prestito e la vacanza? No, assolutamente no, sono contento di essere nel gruppo degli amici di Cuore Dorato. Ecco. No, in realtà è chiaro, ogni analisi di questo tipo ha sempre due chiavi di lettura, si può vedere il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, in realtà però bisogna considerare sempre il confronto con mercati più avvezzi all'utilizzo del credito al consumo. E la seconda lettura che facevi prima, Deborah, probabilmente è quella più corretta, perché comunque sia noi avevamo culturalmente nell'Italia di qualche decennio fa l'idea che il prestito fosse un tabù e che fosse proprio l'ultima sinonimo razio di grande difficoltà e basta, insomma, e vergogna, esatto. Non nascondiamoci dietro un dito. Oggi invece in Italia abbiamo per il credito al consumo, così come anche per le assicurazioni, ad esempio, che era un altro degli argomenti di cui parleremo dopo, un rapporto molto più maturo, e quindi piuttosto che tirarci la cravatta fino quasi a strozzarci o rinunciare alle vacanze, facciamo in modo che queste pesino per 100 euro al mese anziché pesare per 6.000 euro magari per una famiglia tutte in una volta. Andrea, quindi abbiamo 4 minuti di tempo, allora quindi dobbiamo andare subito alle informazioni. Che cosa racconta il vostro osservatorio? Quanto si sono, tra virgolette, in maniera così positiva, indebitati gli italiani per andare in vacanza, in quest'estate 2017? Qual è il prestito medio che è stato sottoscritto, di che durata? Facci l'identikit del... L'identikit parla di un prestito medio di poco superiore ai 5.000 euro, che è una cifra comunque maggiore del 7,7% rispetto a quella dell'anno precedente, racconta di un richiedente che ha in media 42 anni e nel 72% dei casi è uomo, cosa che in realtà vuol dire che sono molte di più le donne rispetto al prestito medio. Di solito in Italia è molto più bassa la percentuale di donne che richiede un finanziamento. Ha appunto poi, nella quasi totalità dei casi, un lavoro a tempo indeterminato presso un'azienda privata. Semmai colpisce il fatto che l'11% delle domande sia firmato da un pensionato. Come mai un'età media così alta? Perché di età media parliamo, perché in realtà ricordiamo che nei prestiti per i viaggi rientrano ad esempio anche i viaggi di nozze. Senti, ma nel vostro comunicato notavo, proprio a proposito di questo ultimo dato che ci hai rilasciato poco fa, l'11% delle domande è firmata da un pensionato e voi dite: la passione per i viaggi, anche a costo di fare un prestito, dona età. Non è che invece in realtà dietro a queste firme di pensionati si nasconde il fatto che danno delle garanzie magari a familiari più giovani? Al 100%, perché ovviamente viaggiano per se stessi ed è una parte di questo 11%, ma essendo la pensione rendita certa, spesso magari si muovono proprio da garante del prestito per pagare il prestito proprio magari anche per il viaggio di nozze dei figli che hanno delle situazioni lavorative più incerte, diciamo così. Allora, sulle destinazioni scelte per queste vacanze il vostro osservatorio non racconta nulla, no? Possiamo immaginare che con determinate cifre si possa andare, vabbè, magari che con 5.000 euro un intero nucleo familiare, non dico che a malapena si paga 15 giorni in Sardegna, che tu conosci molto bene, Andrea, però insomma... Sì, ci sono stato qualche volta. Senti, andiamo ad un'altra curiosità, l'avete diffusa proprio questa mattina, proprio pochi minuti fa, un dato molto curioso che si lega alle ferie e alle vacanze: sono sempre di più diffuse le polizze assicurative che si stipulano per i nostri amici a quattro zampe proprio in occasione delle vacanze, e cioè? Sì, e cioè ormai si parla di un mercato potenziale da diverse centinaia di milioni di euro per quello che vuol dire l'assicurazione per gli animali, e quindi le compagnie si stanno ingegnando per tirare fuori nuovi prodotti, dalla quello che protegge l'animale per gli incidenti se in auto, perché sappiate che in realtà l'RC normale non copre il guidatore eventuali animali, fino anche a delle vere e proprie assistenze di viaggio prepartenza, quindi informare se la nazione che noi intendiamo visitare ha delle regole particolari per il trasporto degli animali, fino all'individuare anche la struttura più adatta al soggiorno dell'animale, e ovviamente anche coprirlo in caso di malattia o un danno che avvenga durante la vacanza. Ultimo, ma non meno importante, c'è anche un'assicurazione che in qualche maniera, non da un punto di vista affettivo purtroppo, ma squisitamente economico, tutela anche nel caso in cui l'animale venga smarrito. Hai capito? Insomma, qua davvero le coperture le abbiamo per tutte le necessità. Leggevo il messaggio di Diego anche che dice... gli amici pelosi. Diego dice i soldi, riferendosi alla prima parte del nostro approfondimento con Andrea Polo, si danno per fare impresa, non per fare vacanze. Diego, d'altronde qui sono prestiti personali, le persone non devono giustificare le finalità e le ragioni per cui li chiedono, per cui se uno ha bisogno e voglia. L'importante è che restituisca, che mantenga il suo profilo creditizio immacolato, no Andrea? Qua poi nessuno giudica l'obiettivo per cui determinati soldi vengono chiesti alle banche. Anche perché poi girando la frittata, in questa maniera si consente di fare impresa a chi fa impresa nel turismo. Hai visto? Hai visto com'è pronto? Com'è pronto subito, Andrea? Ah, ecco, certo, il tema del turismo qua ha una ricaduta positiva anche da questo circolo virtuoso che si innesca anche da un credito al consumo sano. Andrea, grazie per essere stato con noi. Chissà grazie che non ci sentiamo ancora prima delle vacanze, speriamo di farteli in diretta. Gli auguri per delle buone vacanze estive 2017. Le vacanze fanno bene alla pressione, Nicoletta? Le vacanze fanno bene a tutto, credo. Se sono delle belle vacanze fatte con le persone giuste e se riusciamo a così ristorarci. 800 24 00 24, restate con noi, informazioni sul traffico e poi di nuovo insieme. Continuate a seguirci in diretta Facebook. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e denari. La luce mi nuoce, c'ho male alle ossa, tra l'altro ho la pressione bassa. Abbiamo aperto con due numeri, due valori, 120-80. Intanto ditemi su che valori viaggiate e come vi sentite. Qualcosa è cambiato rispetto alle scorse settimane? Ve ne siete accorti? 800 24 00 24. Tutti lo sappiamo, a mano che il termometro sale, la pressione scende. È fisiologico e probabilmente sarà scesa anche la vostra. Quindi siete tutti invitati. Benvenuto a chi è iperteso e sta assumendo una terapia che probabilmente insieme al suo medico curante dovrà ritoccare, se non l'ha già fatto. E benvenuto a chi, come me, ha la pressione bassa e che per effetto del caldo scenderà probabilmente a livelli minimi con tutto il corredo di sintomi che ben conosciamo: stanchezza, fatica, mancanza di concentrazione, vertigini, capogiri, a volte anche un po' un senso di ovattamento. Tutti sintomi però, cari amici, che quando riferiamo vengono minimizzati o neppure presi in considerazione. Comunque, oggi siamo in festa perché abbiamo in studio con noi il professor Claudio Borghi, finalmente venuto a trovarci qua in carne e ossa. Deborah è direttore del Dipartimento di Unità Operativa di Medicina Interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione Italiana Ipertensione Arteriosa. Prima l'ho presentato solo come amico di Cuore e Denari, ma per chi magari non ci frequenta abitualmente, ecco, questa è la ragione per cui l'abbiamo coinvolto e con lui parleremo di ipertensione, di pressione. Il professor Borghi. Più in generale, sì. Tra l'altro volevo ringraziare perché preferisco la prima qualifica alla seconda. Professore, intanto lei ha già portato un po' di freschino, quindi vede, già la nostra pressione si è normalizzata. E ha tratto vantaggio. Ecco, vede. Intanto al nostro numero verde io vi chiedo di raccontarci che cosa secondo voi vi fa salire o scendere la pressione. Sicuramente il caldo la fa scendere, perché il caldo ha un impatto importante sull'apparato cardiovascolare. Le giornate da bollino rosso e con una forte umidità potrebbero in alcuni casi, professor Borghi, rendere necessario seguire qualche attenzione e precauzione in più. Certo. Ma intanto diciamo che è normale, questo ci piace. Assolutamente normale. Il caldo è un grande vasodilatatore, per cui di conseguenza allarga il calibro delle nostre arterie e fa scorrere il sangue più velocemente o più facilmente, quindi automaticamente riduce la pressione. Anche se ci sono nell'organismo dei meccanismi di servocontrollo controllo, che tendono a mantenere la pressione a un livello tale perché sia efficace per il nostro organismo, però certamente in media il caldo determina una riduzione della pressione. E questo effetto colpisce tutti, tutti quelli che hanno il sangue nelle vene. Non è quindi solo riferito a chi ha problemi pressori o di cuori, belli o brutti, come dire, la pressione, se siamo vivi, ce l'abbiamo tutti, e tutti quindi dobbiamo fare i conti con il caldo, che tende ad abbassarlo un po'. Ma professor Borghi, in media di quanto? Sostanzialmente diciamo fra il 5 massimo 10%, diciamo fra 5-7% sarebbe una cosa ragionevole, che non è poco, perché se lei ha valori di pressione elevati molto probabilmente questo passerà pressoché inosservato, ma se, come succede, molte persone, soprattutto ragazze, signore, hanno la pressione bassa, perdere 10% su 100 mm di mercurio vuol dire spostarsi da un ambito di relativo benessere a un ambito di vita un pochino più fastidiosa, una qualità di vita peggiore. Quindi sono fortunati, una buona notizia per chi è iperteso e quindi potrà alleggerire un po' la terapia, ne parleremo, ma un problema in più per chi invece viaggia, certo, su valori già bassi ed è quindi ipoteso. Ma professor Borghi, quando si può parlare di pressione bassa? Ci dà un valore o due nel caso, perché tanto per organizzarci un po'. La fisiologia naturalmente definisce dei termini, per cui in generale noi parliamo di ipotensione quando la pressione massima è inferiore a 100 mm di mercurio. Questo però non vuol dire che valori di pressione di quel livello siano necessariamente problematici o patologici. Ci sono persone che vivono tranquillamente con valori di pressione così ridotti e non hanno alcun sintomo specifico. Per cui certamente l'ipotensione può essere definita per una pressione inferiore a 100, altrettanto sicuramente forse può essere più facilmente definita da tutte quelle condizioni nelle quali la riduzione della pressione genera un certo grado di malessere. In questo caso noi potremmo avere un'ipotensione relativa anche per valori più elevati. Il fatto è che chi soffre di pressione bassa si sente spesso trascurato perché i sintomi sono banalizzati e tutta l'attenzione è rivolta in genere alla pressione alta, all'ipertensione, certo, perché è importante, è un fattore di rischio per la salute del cuore e del cervello e che se non viene diagnosticata e trattata può interferire sul funzionamento di altri organi, compromettendoli molto seriamente. Questa è una verità, professor Borghi, che possiamo dire quattro stagioni. Assolutamente. Sul fatto che la pressione alta sia un fattore di rischio e possa generare complicanze è una cosa assolutamente indubitabile, è un concetto granitico. Sul fatto che la pressione bassa, se evidente in condizioni fisiologiche, sia un meccanismo di protezione, altrettanto, perché ovviamente chi ha la pressione bassa vive fatalmente più a lungo. Il problema fondamentale sono i pazienti nei quali la pressione sia bassa o per effetto della terapia o per effetto di patologie sottostanti che, influenzando il cuore e le arterie, possono far abbassare la pressione. In quel caso la medesima ipotensione non può essere considerata in modo così benigno, ma deve essere considerato come qualcosa potenzialmente pericoloso. Allora, il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24. Probabilmente, professor Borghi, questo caldo porterà anche un ulteriore vantaggio. Probabilmente ci saranno tra noi, tra i nostri ascoltatori, delle persone che alla pressione non ci hanno mai pensato o non l'hanno mai misurata o non la misurano di frequente, ma proprio avvertendo un po' di disagio, di stanchezza, soffrendo il caldo, noi diciamo, certo, così, certo, magari avranno pensato, ma sarà mica la pressione, e avranno finalmente deciso di andare a misurare la pressione. Questo resta un aspetto importante, perché qualsiasi elemento che possa contribuire ad aumentare la conoscenza dei propri valori di pressione è assolutamente benvenuto. La nostra società ha fatto campagne ogni anno, una giornata mondiale dedicata proprio a questo aspetto, conosci la tua pressione, perché nel momento in cui noi abbiamo stabilito che è normale, siamo a posto con il mondo, ma la dobbiamo misurare. Molte delle persone che dicono di avere la pressione normale non l'hanno mai misurata in vita loro, si attribuiscono una pressione normale. Ma secondo lei, professor Borghi, perché c'è questa resistenza? Ma la resistenza deriva fondamentalmente dal fatto che il concetto di pressione alta è molto associato al concetto di terapia farmacologica, che in generale si presume debba essere assunta per tutta la vita, per cui nessuno gradirebbe pensare di prendere farmaci per tutta la vita, sembra una specie di condanna, una sorta di nemesi che cade su di noi, e quindi se io non conosco la causa, automaticamente mi sembra di essermi sottratto alla necessità di trovare una soluzione. Abbiamo già i nostri amici che ci chiamano, anzi amiche in questo caso, perché ci ha raggiunto Lucia, ci chiama da Venezia. Buongiorno Lucia. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei e benvenuta. Allora, il mio problema è che da quest'inverno ho avuto pressioni per me, che ho sempre avuto la pressione bassa, molto alta, 200-100, con il cuore che mi andava, non che aumentava i battiti, lo sentivo pulsare molto forte e molto fastidioso. Non siamo riusciti a trovare le pastiglie giuste e quindi non ho preso più niente. È venuto il caldo, come ha detto lei, la pressione è cominciata a tornare bassa. Io ho sempre avuto la pressione bassa, sentivo parlare di limiti. Io l'anno scorso, l'estate scorsa, sono andata anche 45, 48, 80 massima. E quindi, allora, Lucia, e quindi alla pressione lei non ci ha più pensato, ma secondo me il professor Borghi le dirà che occorre invece ripensarci. Professor Borghi. Sì, deve ripensare la signora, perché molto probabilmente questa è una fase di transizione in cui lei sta passando dalla sua pressione, che aveva forse negli anni precedenti, a un valore di pressione più elevato. Questo in generale non avviene in maniera graduale, ma avviene molto spesso per strappi successivi. La pressione si alza, poi ritorna normale perché i meccanismi la normalizzano, ma poi tende a rialzarsi di nuovo. Per cui adesso, complice il caldo, la pressione della signora è ritornata nel suo valore naturale, ma è verosimile, è probabile che quando ritornerà una temperatura più fresca o più fredda durante l'inverno, i suoi valori possano rialzarsi. Quindi il mio consiglio a questo punto è, adesso la nostra signora non ha alcuna necessità di un trattamento farmacologico, ma quando farà più freddo molto probabilmente dovrà riprendere in esame questa possibilità. Quindi dopo le vacanze, dopo le vacanze intese come estate, Lucia può andare dal suo medico curante, perché la pastiglia non l'abbiamo trovata, forse è più di una pastiglia, perché certo, la terapia si compone di più farmaci, questa già non piace e questo piace ancora di meno naturalmente ai pazienti, anche se oggi abbiamo combinazioni precostituite che contengono più farmaci nella stessa compressa, quindi il problema delle somministrazioni multiple l'abbiamo risolto. No, quello che lei solleva invece è un problema importante. Non consideriamo che tutte le pasticche che funzionano per l'ipertensione sono uguali, ognuno di noi è diverso. Una cura proprio personalizzata. Torniamo subito dopo il GR insieme al professor Borghi e a Deborah naturalmente. A tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Cuore e denari. Allora, parliamo di pressione. Qua c'è movimento, abbiamo il professor Borghi con cui parlavamo anche di tortellini che alla pressione non possono che fare bene. Bene, molto bene. Ecco, molto bene. Adesso magari con il brodo diventa un po' caldo, ma insomma. Basta avere una buona aria condizionata, si può digerire tutto. Allora, il tortellino è quattro stagioni. 800 24 00 24, parliamo di sbalzi di pressione. Per caso qualcuno di voi è passato in farmacia a misurarsi la pressione o se l'è misurato da sole? Allora, raccontatecelo intanto, forse Giovanna è in linea con noi da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Alle due monelle, Nicoletta e Deborah, sempre allora, squisite. Beh, grazie Giovanna. Diciamo allora, sempre monelle perché siete brevi. Allora, dire, io, allora sì. Giovanna, la teniamo lì un attimo nel brodo, sì, perfetto, perché prima tranquilla. Stia lì, perché mi serve per poi presentare un altro ospite che coinvolgeremo in questa parte di Cuore Denari. Ma andiamo a proposito di misurazione di pressione ad Andrea che ci chiama da Chieti. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo fare una domanda al professor Borghi. Io faccio automisurazione tre volte al giorno, la mattina appena sveglio, prima di pranzo e prima di cena. L'unica cosa, volevo chiedere qual è la posizione ideale per fare la misurazione, perché io ho notato che variando anche di poco la posizione del braccio, le misurazioni sono abbastanza differenti, anche di 10 punti. Io ho la misurazione, l'effetto disteso con un cuscino sotto al braccio per portare il braccio all'altezza del cuore. Ma diventa un lavoro, professor Borghi, tre volte al giorno. È un lavoro. Ma non è tanto, tre volte al giorno. Diciamo l'estremo superiore, ma il nostro ascoltatore ha probabilmente molto in cura i propri valori di pressione. Devo dire che se questo non è angosciante dal punto di vista psicologico, e mi sembra che il nostro ascoltatore ne parli con molta serenità, noi siamo molto felici di chi si misura la pressione, siamo più infelici di chi non se la misura, per cui io preferisco questo estremo piuttosto che delle misurazioni saltuarie che non ci dicono assolutamente nulla. Quanto alla posizione, credo che la posizione distesa non sia esattamente rappresentativa dei suoi valori di pressione, perché manca quella piccola quota legata alla postura, perché lei trascorre la sua vita in piedi. Il mio suggerimento, che è quello delle linee guida internazionali, è misurarsela da seduto, tenendo il braccio ben poggiato sul tavolo e tenendo conto che il bracciale deve essere collocato all'altezza del cuore. In questo modo il valore che otterrà sarà un valore intermedio fra la pressione distesa e la pressione in piedi, ed è quello che a noi risulta più utile per prendere decisioni. Andrea, quindi, dato che lei è preparato, stamattina che valori aveva? Perché tra poco arriva la seconda misurazione, ma stamattina? Avevo 124,77. Bravo, ma dai, è perfetto Andrea. No, l'unica cosa è che quest'inverno c'avevo una media giornaliera intorno ai 140,90, quindi parlando col medico mi ha consigliato di tenere un diario giornaliero, io questo e lui è molto ligio. Grazie Andrea da Chieti. Noi ripeschiamo Giovanna da Roma, perché ha una domanda che è molto interessante per il nostro prossimo ospite. Giovanna, sì, eccola qua. Infatti era quello che volevo, però mi anticipate voi, volevo chiedere in particolare i consigli appunto a livello nutrizionale, ma soprattutto per la mattina, perché questa pressione, di cui il mio medico generico dice che non morirò mai, perché insomma dà però questo senso di astenia, di stanchezza, insomma, non so se il professore lo condivide, però devo dire una cosa, che uno al di là della pigrizia porta avanti la giornata, ma quando si fanno le 4:30 alle 5 io mi sembra come di svegliarmi al mattino, mi si leva quel peso e divento, ma è una cosa mentale o proprio la ritorno senza la questa, io mi sento come un peso sulla testa, cioè che mi schiaccia. E poi a mano che la giornata va avanti verso sera, in modo particolare, però bravo, quasi un interruttore, che guardo l'orologio, oddio, sono le 5, mi sento leggerissima. Professor Borghi, tutto normale, gli ipotesi lo sanno, verso sera stiamo meglio, ma per stare ancora meglio Giovanna chiedeva: ma che cosa posso mangiare? Qual è la dieta? E soprattutto al mattino, per avere un pochino più carburante, lo avevo anticipato, abbiamo in linea con noi il dottor Luca Voledo. Buongiorno dottor Voledo. Buongiorno, ben nutrizionista, naturopata, esperto di medicina naturale, autore di No Vegan, un libro di cui abbiamo parlato, che sta continuando a far discutere. Noi ne abbiamo già discusso. Dottora Voledo, per la nostra amica Giovanna e per tutti coloro che al mattino fanno fatica a carburare proprio a causa dei valori bassi di pressione, che cosa suggerisce? Beh, innanzitutto di fare colazione, perché tanti non fanno colazione e poi si lamentano di valori pressori bassi durante la giornata. La colazione è il momento giusto per fare il pieno di nutrienti e di energia che ci portano poi avanti per tutta la giornata. Ma è anche molto importante scegliere con attenzione i cibi e come distribuirli nella giornata. Per esempio, le persone che soffrono di pressione bassa potrebbero evitare i tre classici pasti giornalieri e provare a suddividere il totum calorico quotidiano in pasti più piccoli. Questo ha due effetti interessanti: da un lato aiuta a mantenere più stabile la glicemia, cioè il livello di zuccheri nel sangue, perché i sali scendi di glicemia possono peggiorare le sensazioni sgradite che si accompagnano all'ipotensione, debolezza, testa vuota, spostatezza, eccetera, eccetera. Nel contempo, frazionare i pasti alleggerisce anche il processo digestivo e quindi è un processo che richiama di fatto sangue ai visceri e lo sottrae ad altri organi come il cervello, che ne avrebbero magari più bisogno, e chi è ipoteso potrebbe risentirne particolarmente. Inoltre, oltre al mangiare, è essenziale in questo periodo soprattutto il bere. Questo lo sappiamo bene, ma è anche interessante capire che cosa bere. L'acqua va benissimo, bene anche spremute, frullati, centrifugati, che consentono di evitare la disidratazione, che è una causa di pressione bassa, e meglio invece evitare le bevande zuccherate come le bibite industriali e anche molti succhi di frutta industriali che sono troppo ricchi di zucchero, e anche evitare gli alcolici che promuovono la disidratazione. Allora abbiamo in linea con noi Mario da Como, buongiorno Mario. Buongiorno. Buongiorno a lei. Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno al professore. Buongiorno. Eccola qua. Allora, la mia domanda è molto semplice. Ho riscontrato quest'anno di avere l'ipertensione. Il cardiologo ha detto che è una situazione di familiarità, per cui era prevedibile, e sono in cura con un farmaco, il Lovipon. La mia domanda è, ma sono veramente condannato tutta la vita a questo farmaco o ci sono dei casi nella medicina moderna che appunto confermano che magari prima o poi questa terapia possa essere anche sospesa? Grazie mille. Questa è una domanda molto comune tra i nostri pazienti. Attualmente l'ipertensione non ha una causa riconosciuta, per cui ovviamente la terapia si basa sulla correzione del sintomo e non sulla rimozione della malattia di fondo. Quindi quello che io oggi dovrei dire è certamente la terapia antipertensiva sarà compagna per il resto della sua vita. Fondamentalmente però abbiamo assistito in molte altre situazioni anche legate al rischio cardiovascolare a scoperte relativamente rapide che nel giro di poco tempo hanno identificato la causa responsabile oppure hanno modificato radicalmente le scelte dal punto di vista terapeutico. Quindi io non vorrei mettere questo orizzonte ineluttabile, ma pensare che alle conoscenze attuali lei assuma regolarmente la sua terapia. Nel momento in cui, io mi auguro sarà presto, riusciremo a identificare un meccanismo, molti ci stanno lavorando, molto probabilmente anche le scelte terapeutiche saranno diverse. Una minima percentuale di pazienti ha invece una regressione spontanea verso i valori normali, 10-15%, quello che si chiama regressione verso la media, motivo per cui lei deve continuare a controllarsi sistematicamente la pressione. L'importante, professor Borghi, è che il medico, il nostro medico di famiglia, il cardiologo, il nostro medico di fiducia, ci prescriva una terapia cucita su misura. Assolutamente. Che assolutamente si compone generalmente di più farmaci. Ecco, vorrei stressare questo aspetto, perché a ciascuno la sua terapia, sembra un modo di dire, ma è davvero così, è sempre più così. Certo, questo è un aspetto molto importante. Farmaci antipertensivi che funzionano bene ce ne sono tanti, almeno 5 classi di farmaci sono raccomandate, ma non tutte queste 5 classi si adattano a tutti i pazienti. Quindi prima indagare molto bene il paziente per quello che riguarda le sue caratteristiche dal punto di vista della sua storia fino alle sue caratteristiche, gli esami di laboratorio e quant'altro. Dopodiché sulla base di questo si può prendere una decisione che riguardi un farmaco o più classi di farmaci che siano adeguati a quel tipo di paziente. Oggi, e la sua domanda è molto pertinente, esiste una tendenza che verrà rinforzata dalle nuove linee guida all'uso di basse dosi di terapie di combinazione come terapia iniziale, perché questo permette di utilizzare più meccanismi che hanno un effetto sinergico, per cui l'effetto alla fine è più vantaggioso perché abbassa la pressione e protegge gli organi bersaglio. Quindi è una nuova frontiera del trattamento. Basse dosi, meno effetti collaterali, più protezione per il cuore e per le arterie. E se la pressione non viene controllata dalla terapia, che fare, professore? Perché molte persone si rassegnano e credo anche tanti medici. La pressione non viene controllata dalla terapia in una percentuale che è inferiore al 5%. Quindi fondamentalmente bisogna cercare di comprendere quali sono i motivi che non permettono alla terapia di controllare la pressione. E nella grande maggioranza dei casi, devo dire, purtroppo sono il fatto che i pazienti non assumono volontariamente i farmaci e poi negano di averlo fatto, o alternativamente il fatto che assumano la terapia in maniera intermittente, per cui prima di tutto il paziente deve assumere il farmaco in maniera sistematica, secondo c'è un assoluto dovere da parte del medico di cercare di identificare la terapia adeguata sui criteri che abbiamo detto in precedenza fino al risultato. Ma noi abbiamo la certezza che seguendo questa logica i pazienti cosiddetti resistenti al trattamento sono non più del 5%. Stefano, buongiorno da Bergamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano, sta bene? Benissimo, sto benissimo, bene. Grazie al cielo. Bene, siamo contenti. La mia domanda era questa, gli integratori alimentari, se validi, sono un'ottima risposta per certe mancanze? Ottima risposta, la vuole proprio ottima la risposta, dottor Avoledo, o basta adeguata. Una risposta adeguata? Chiedevo, visto che se ne parla tanto in questo periodo. Grazie, bellissima domanda Stefano. Dottor Avoledo, questa aspetta lei. Dipende dal tipo di dipende dal tipo di esigenza. Ottima è già, come dire, un'aspettativa, come dire, molto ambiziosa. Ci sono degli integratori che possono essere utili, immagino che siano quelli a cui si riferisca il nostro ascoltatore. Sono in particolare integratori a base di alcuni minerali, alcuni sali, come il potassio e il magnesio, che sono sali in questo periodo, alcuni si perdono anche con facilità per la sudorazione, e sono utili per sostenere l'organismo in questo periodo e anche per regolarizzare i valori pressori, combattere la spostatezza, l'affaticamento. Quindi la risposta è decisamente sì. Anche qua poi, da prodotto a prodotto, ci possono essere differenze, nel senso che eviterei quelli con dosaggi troppo bassi, ma quelli che sono in commercio in linea di massima, integratori di magnesio e potassio, sono interessanti in questo periodo. Oliviero, buongiorno, ci chiama da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho un problema, nel senso, ho 78 anni, come avevo detto, ho sempre avuto la pressione bassa, 65-115-120, adesso è un periodo, da un mese e mezzo a questa parte, tutte le volte riesco che tossisco, con un minimo di tosse, senza... Sì, proprio un colpetto. Un dolore alle tempie. Per 30 secondi ho un dolore atroce e qualche volta anche abbassandomi verso il basso. Ma che cosa può essere? Un problema di pressione che è alzata? Non lo so. Io ho riprovato, adesso ce l'ho 70-140, quindi non riesco a capacitarmi. Adesso lo chiediamo al professor Borghi, che ci sta facendo una pensata. Professor Borghi. No, sta facendo una pensata perché è un dubbio assai interessante, però il nostro ascoltatore descrive questa sintomatologia piuttosto bene. La mia impressione, vista anche la localizzazione di questo dolore, è che il colpo di tosse causi una ripercussione soprattutto sulla colonna cervicale, quindi sia qualche cosa che è a partenza d'arrachide, qualcosa di tipo osteoartrosico probabilmente. In quella sede andrei a cercare. La pressione non è in grado di produrre un risultato così istantaneo, per cui un gesto come tossire automaticamente riesca a mettere in moto un riflesso tale da risultare doloroso. L'unica cosa che lo può fare è il sistema nervoso. Il sistema nervoso fatalmente ha come suo centro di attività la colonna vertebrale. In più il nostro ascoltatore dice che questo fenomeno si scatena anche quando si abbassa, che è il movimento peggiore che può fare chiunque abbia un problema alla colonna cervicale. Un ascoltatore via WhatsApp, perché loro sono magnifici, ci suggeriscono e lo ringrazio, mi dice: chiedete qualcosa al professore sul rapporto trasporto e ipertensione. Cosa possiamo chiedere? Qualcosa? Cioè, ci sono delle attività sportive che sono magari più suggerite o al contrario, magari devono essere un po' praticate con maggiore attenzione, sotto controllo, per chi è iperteso? Ma parliamo di una persona quindi che sa di essere ipertese, certo. Segue una terapia e poi andiamo dal dottor Avoledo. Rapporto fra sport e ipertensione è eccellente, lo sport e l'attività fisica sono tra le raccomandazioni più cliccate, se così vogliamo dire, in tutte le linee guida di prevenzione cardiovascolare. Gli sport da preferire sono quelli in cui l'esercizio viene fatto in progressione, quindi la passeggiata di buon passo, la corsa, la bicicletta, il nuoto. Gli sport da evitare sono quelli che obbligano a fare esercizi contro resistenze fisse, per intenderci il sollevamento pesi o la pesistica fatta nelle palestre. Quindi grande sport in progressione, sicuramente eccellente per la pressione, mai sollevare resistenze fisse o quantomeno dedicarsi ad attività di tipo pesistico, perché questo può fare salire la pressione di molto e molto rapidamente. Dottor Avoledo ha dato delle indicazioni per le persone con la pressione bassa, ma vogliamo occuparci anche degli ipertesi, anche se, come stiamo sottolineando dall'inizio della puntata, godranno in questo periodo dell'anno di dei valori pressori un pochino più bassi e quindi il caldo diventa in un certo senso terapia. Quali attenzioni nutrizionali alimentari può suggerire? Una in particolare che è quella che vale più di tutti a mio avviso, ed è l'attenzione al sale. Lo sa anche l'uomo della strada che il sale fa salire la pressione, molto meno conosciuto è invece il fatto che non è tanto il sale che aggiungiamo nell'acqua della pasta o sull'insalata o sulla carne, che è quello più responsabile. La maggior parte del sale, o in particolare del sodio, è questo il minerale cloruro di sodio, quindi il sodio è quello che ci dà più fastidio, che assumiamo quotidianamente, deriva da sale nascosto nei cibi, in particolare nei cibi pronti, che ne contengono quantità anche molto ingenti e a cui spesso non si bada. Allora, quali sono i cibi a cui fare attenzione? Sono cibi di uso comune come il pane e tutti i prodotti da forno, come cracker, grissini, focacce, pizze, che contengono quantità elevatissime di sale, e persino i dolci, biscotti, fette biscottate, merendine pronte, contengono spesso grandi quantità di sale. Tutti i formaggi, non solo quelli stagionati che ne contengono tanto, compreso il parmigiano che si mette sugli spaghetti, ma anche alcuni buonissimo formaggi freschi. Buono, buono. Ma moderiamolo, se abbiamo questa tendenza ai valori pressori alti, tutti i salumi, compresa la bresaola che i dietologi amano tanto, i dadi da brodo, il tonno in scatola, che è un cibo che si mangia molto adesso, ma è ricco spesso di sale, molti snack, patatine, noccioline, salatini, persino certi cereali per la colazione, compresi quelli light, contengono sale aggiunto. Quindi inutile mangiare sciappo se poi si prende sale da tutti i prodotti di cui non evitiamo di leggere magari l'etichetta, invece guardiamolo lì. Sale, ma anche lo zucchero, professor Borghi. Ho visto anche che lei zucchero non l'ha aggiunto al caffè, gliel'abbiamo dato amaro, l'ha bevuto di un colpo senza colpo ferire, quindi segno che era abituato. Abbiamo Francesco da Bari, prima di chiudere rapidamente, di salutare il professor Borghi e il dottor Avoledo. Francesco, prima di andare ai mercati, volando. Va bene, sì, grazie, buongiorno, vi saluto innanzitutto. Grazie Francesco, un saluto anche a lei. Grazie, quindi veloce. A seguito controlli cardiaci, vabbè, per disfunzioni sistoliche derivati dai 7-8 caffè giornalieri, il risultato anche il colesterolo alto, che mi ha costretto a mettersi a dieta. Esatto, persi 7-8 kg. Ero iperteso, io uso forse propriamente questo termine, ero iperteso. E quindi i valori della pressione sono tornati normali. Francesco, vado, che così il professor Borghi le può rispondere. Francesco ci dice: ma adesso che con la dieta la pressione si è normalizzata, devo continuare a prendere la terapia oppure sono guarito? Fatto un lavoro eccellente. La dieta è un farmaco e la dieta, la riduzione del peso corporeo, equivale fondamentalmente al risultato di un farmaco. Quindi se Francesco riesce a mantenere questo suo peso corporeo in maniera così virtuosa, automaticamente può ridurre la terapia antipertensiva. Per noi quello che conta è il risultato finale, quello che gli americani dicono the bottom line. Lì dobbiamo arrivare. Se ci arriviamo riducendoci di peso con i farmaci o togliendo il sale, non ha molta importanza. L'importante è che ci portiamo sotto il limite di sicurezza. E speriamo anche noi di aver raggiunto un po' il nostro obiettivo e di sensibilizzarvi su questo aspetto. Ringrazio il dottor Avoledo, ricordo il titolo del suo libro No Vegan. Grazie per i suoi consigli, professor Borghi. Grazie, noi l'aspettiamo nuovamente in studio, perché in studio ci piace ancora di più, se è possibile. Guarda, è stato veramente un debutto con grande piacere, con la bottom line. Sono felice di essere stato qua con voi, perché abbiamo questa lunga collaborazione della quale mi onoro, però vista da questo punto di vista è ancora meglio. Grazie. Bene. Allora, mercati. Con le pressioni salgono e scendono, guarda, anche loro. Adesso li vedo un po' più sereni rispetto all'apertura, che era stata un pochino Borghi più nervosa. Stanno meglio. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sì, Andro Mercù guarda qua e dice: e ma dice, quelle son due pazze, sono fuori di testa. E qua si balla, caro mio, si balla con Fedez e J-Ax, sono i miei idoli in questo momento, io li ho sempre amati tantissimo. Vengo allo scoperto, insomma, abbiamo utilizzato questa canzone per introdurre l'argomento di questa mattina. Vabbè, la relazione l'ho fissata io, abbiate pazienza, non c'è davvero per i nostri risparmi pace, anche se la notizia di oggi di cui si parla in realtà da qualche giorno, non è un fulmine a ciel sereno, ma l'applicazione di un provvedimento del quale in realtà si parla da tempo. Allora, dal 4 luglio, giornata in cui Wall Street celebrerà la festa dell'indipendenza, i mercati americani saranno chiusi, vanno in pensione i libretti di risparmio. C'è un'altra relazione, qua tutte coincidenze curiose, vedi? Vanno in pensione i libretti di risparmio, non tutti però, ma quelli al portatore. Si tratta di una delle storiche forme di accumulazione di capitale, anche se in genere modesto, appunto, da parte delle famiglie italiane. Dalla prossima settimana non potranno essere più emessi sia dalle banche che dalle Poste Italiane. Quindi chi è in possesso dei vecchi libretti, che non possono ad oggi peraltro avere un saldo superiore ai 1000 euro, dovrà cominciare ad abituarsi all'idea di chiuderli o trasformarli in nominativi, se ne ha più di uno, chi ha al possesso appunto il vecchio libretto. Come si fa? Ci spiega tutto Nicola Forte, tributarista, esperto del Sole 24 Ore e un altro grande amico di Cuore Denari. Grazie Mattia a tutti amici. Nicola, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io ne approfitto peraltro per segnalare che invece domani ci occuperemo della questione delle polizze dormienti. Dopo la segnalazione che è stata fatta dal presidente dell'IVASS, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo, Salvatore Rossi, che nella relazione annuale di venerdì scorso ha denunciato che in Italia almeno 4 miliardi di euro giacciono nelle casse delle assicurazioni italiane e nessuno li va a riscuotere. Sono proprio i denari contenuti in polizze assicurative dormienti, perché magari o nessuno sa di avere, un po' come quelle che aveva la Virginia Raggi, e sono scadute da almeno 5 anni, non sono state liquidate perché i beneficiari non si presentano allo sportello o comunque non vanno dall'assicuratore a riscuotere. Non sia mai che l'assicuratore va a, naturalmente, no, quello. A ricordarlo alle persone. Vabbè, è tant'è vero che il presidente dell'IVASS Rossi ha detto sono le compagnie che devono attivarsi nei confronti dei loro assicurati. Domani ne parleremo diffusamente. Detto questo, ritorniamo invece ai nostri libretti di risparmio, che sono i protagonisti della trasmissione di questa mattina. Allora, intanto 800 24 00 24, se volete avere dei chiarimenti su questo argomento, mi sono preparata anche un bel quizzettone sull'argomento di stamattina. Dottor Forte, ricordiamo la genesi del provvedimento che ci porta a parlare dell'argomento di oggi e che porterà nel giro di qualche mese, perché abbiamo tempo alla fine fino a dicembre 2018, ne far diventare appunto i libretti residui in circolazione fuori legge. Ci spiega qual è la ratio che sta dietro e perché si inserisce nei provvedimenti antiriciclaggio degli ultimi anni? Perché tutto ciò che può essere liberamente trasferito, noi pensiamo immediatamente al denaro, ma non solo il denaro, anche i titoli al portatore e i libretti al portatore che circolano mediante consegna, sfugge al controllo, si presta quindi ad essere utilizzato dalla criminalità organizzata per finalità di riciclaggio, e quindi il legislatore tende a limitare sempre di più possibili trasferimenti indiretti di denaro, perché poi un libretto al portatore acceso presso un istituto di credito o un ufficio postale contiene al suo interno denaro, può essere trasferito, ripeto, liberamente senza nessuna forma di controllo, e quindi questa è la ratio del provvedimento. Quindi il libretto al portatore viene considerato di fatto denaro contante? Assolutamente, tant'è che le disposizioni in materia di antiriciclaggio limitano il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi a qualsiasi titolo, ma non solo del denaro contante, ma anche di titoli al portatore e libretti al portatore, nei limiti dei 2.999 euro, perché poi dobbiamo distinguere la possibilità di trasferimento, che in futuro non ci sarà più per questi strumenti, rispetto al saldo dei libretti. Sono problemi diversi. Ecco, allora, questo ragionamento si lega anche al fatto che i libretti al portatore non si chiamano così perché non contengono il nominativo, non fissano il nominativo appunto del titolare, ma più perché possono proprio circolare come titoli liberi. Quindi il titolare stesso può inviare chiunque a prelevare o a versare su questo conto, che può essere anche definito un conto di deposito, perché poi molte altre funzioni, no, Nicola Forte, non ce le ha. No, assolutamente, questa è proprio la distinzione tra libretto e conto corrente. Mentre sul conto corrente posso fare tante operazioni, il libretto di deposito proprio si caratterizza per un'operatività ben più limitata. Posso versare, posso prelevare, ma non posso fare tante operazioni. E infatti questo era il regalo preferito delle nonne per i nipoti, per il primo regalino magari al battesimo, la prima forma di accantonamento utilizzata da una famiglia proprio per i figli, appunto per la famiglia che si allarga, tutto quello che derivava dalla giornata del battesimo, se non erano regali di altro tipo, appunto diventavano libretto di risparmio, e quindi in questo caso, nella fattispecie, libretto al portatore, a meno che non venisse subito identificato con la persona che lo apriva, no? Ma in quali casi, secondo lei, perché poi a questo tema in realtà è legata anche un po' la storia di questi strumenti di risparmio, ed è il tema su cui vorremmo fare il quizzettone dopo, ma secondo lei, insomma, per quale motivo, adesso a parte la funzione antiriciclaggio, ma andandone un po' a ricordare le funzioni e lo spirito originario forte, insomma, in quale caso era suggeribile aprire un libretto di deposito al portatore e non dargli un'identificazione, quindi non assegnargli il nome della persona che lo apriva? Ma a parte adesso le finalità criminose, esatto, l'antiriciclaggio, ecco, lo ricordava lei stesso, era proprio una forma, diciamo, di risparmio cui i nostri antenati, chiamiamoli così, erano affezionati. La nonna lasciava apriva il libretto, lo accendeva, sul quale poi versava delle somme periodicamente e lo consegnava al nipote, diciamo. C'erano ovviamente finalità ben più legittime, lecite, infatti, rispetto a quelle del riciclaggio, che sono peraltro proprio quelle finalità a cui ha pensato quel ministro delle finanze italiane sotto la cui egida nacquero queste forme, appunto, di risparmio, i libretti al portatore. È proprio su questo che volevo fare il quizzettone, Carmelo. Sì, l'ho già anticipato, in realtà la sigla dovevo mandarla prima. Voglio sapere chi è questo ministro. Questa scelta la fece con una legge del 1875. Il quindi papà del libretto di risparmio, ecco. Esatto, del libretto, sì, del libretto al portatore. E quindi 800 24 00 24 se volete rispondere al domandone, ma naturalmente anche se volete farci le vostre domande su questa dichiarazione fuori legge a partire dal 4 luglio. Allora, forte, andiamo proprio a questa scadenza. Dal 4 luglio esattamente, che cosa succede? Allora, succede che banche, istituti di credito e uffici postali non possono più rilasciare libretti al portatore, ma i libretti devono essere esclusivamente nominativi. Ma non solo, dal 4 luglio chi ha un libretto al portatore non lo può più far circolare, quindi è fatto proprio divieto del trasferimento del libretto. Può semplicemente operare presentandosi agli sportelli per effettuare versamenti e prelevamenti, ma con una particolarità: che il soggetto che può presentarsi agli sportelli dopo il 4 luglio deve essere esclusivamente il soggetto che risulta censito nell'anagrafica della banca. Quindi significa che deve comunque trasformare in nominativo questo libretto? No, non necessariamente, no, perché in realtà il libretto al portatore lo devo estinguere o trasformare nominativo entro la scadenza del 31 dicembre 2018. Esattamente. E quindi non vuol dire che devo, certo, ovviamente per mia scelta, per mia comodità lo posso fare prima. Ah, beh, certo. Ma semplicemente è che non lo posso trasferire di mano in mano e mi posso limitare a prelevare, a versare, mantenendo sempre il saldo inferiore ai 1000 euro, e questa operatività è consentita esclusivamente a colui che sarà nell'anagrafica della banca. Perché poi voglio ricordare una cosa, che prima ancora di questa novità, sempre le disposizioni in materia di antiriciclaggio prevedevano, nell'ipotesi di trasferimento del libretto, che il cedente dovesse comunicare alla banca entro 30 giorni a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario. L'accettazione di questa è la data di trasferimento. Quindi in realtà la banca, mano a mano che il libretto in passato ha circolato, dovrebbe avere un'anagrafica aggiornata. se tutti i soggetti hanno temperato, certo, le disposizioni. Ma secondo lei, e quindi appunto proprio anche in virtù di questa ultima riflessione che ha fatto, ce ne saranno ancora molti, secondo lei, in una condizione di potenziale illegalità? Ma è difficile. Essendo ai fini antiriciclaggio il provvedimento, e magari non lo sappiamo, proprio perché purtroppo non è facile, un po' nascosto. Magari potrei aver dimenticato il libretto nel cassetto, potrei aver dimenticato di fare la comunicazione in banca circa il fatto che l'ho trasferito e lo potevo fare a un altro soggetto. Quindi cosa succede? Che quando vado a estinguerlo, la banca non identifica, non ha nell'anagrafica il soggetto che ne chiede l'estinzione, perché magari in passato non è stata fatta comunicazione, certo, alla banca, e quindi allora, esce fuori la violazione. Ci fermiamo, adesso c'è il traffico, intanto continuo a ricordare agli ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24. Vedo che in tanti hanno studiato storia, si stanno candidando a rispondere al nostro domandone. Libretto di risparmio al portatore nominativo, insomma, ne avete sottoscritti per voi, per le vostre esigenze di risparmio, per quelle magari di un vostro caro, di un vostro congiunto, nella fattispecie di un figlio o un nipote. Sapete quali sono le novità che stanno andando a regime? Attenzione, perché a breve i libretti al portatore saranno dichiarate fuori legge, per cui non sarà più possibile appunto operare secondo le modalità con cui avete fatto fino a questo momento. Ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Sotto l'egida di quale ministro delle finanze italiane nacquero come forma di risparmio i libretti al portatore? Io vi do anche la data, è il 1875, più generosa. Dai, di così, così non lo so cosa possiamo fare ancora. 800 24 00 24 il numero verde per risponderci, ma anche per farci tutte le altre domande sul tema libretto di risparmio al portatore o nominativo. Quali sono le novità con cui ci stiamo confrontando in questi giorni, che ci sta spiegando il nostro Nicola Forte, tributarista, esperto del Sole 24 Ore, perché dal 4 luglio in avanti il libretto al portatore sarà dichiarato, sarà ufficialmente fuori legge. Allora, Nicola, con un esempio, ammettendo che io ce ne abbia ancora uno, perché per pigrizia non ho ancora voluto modificare il mio rapporto appunto con la banca o con la posta presso la quale lo avevo aperto, ammettendo di volerlo ancora tenere per mio nipote, per i miei nipoti, naturalmente ricordandomi bene che la cifra depositata non doveva essere superiore a 1000 euro nella, per meglio essere precisi appunto nel limite del saldo di 999,99 euro, allora ce l'ho ancora al portatore. Dal 4 luglio che cosa devo fare per essere in regola? Andiamo proprio all'esempio pratico per farlo, per fissarlo bene in testa dei nostri ascoltatori. Certo. Allora, dal 4 luglio io ho una gamma di possibilità, ecco. Posso presentarmi in banca, decido di estinguere il rapporto e quindi prelevo la somma, poi posso elargire la somma a mio nipote, che può decidere di aprire un libretto nominativo, oppure posso recarmi presso lo stesso istituto di credito e trasformare quel libretto al portatore in libretto nominativo, o viceversa appunto posso far sì direttamente che mio nipote sia, da questo momento in avanti, titolare appunto, ecco, di un libretto, quindi nominativo a suo favore. No, tra l'altro qua bisogna anche essere molto chiari con i nostri ascoltatori, Forte, perché essendo al portatore, anche volendo magari o la banca o la posta, non è che ci telefonano per dirci vieni a regolarizzare la tua posizione, proprio perché, allora, cioè, a meno che questa anagrafica già non esista, come lei ci diceva prima, ma in teoria la banca non sa chi lo ha aperto. È diciamo che la banca potrebbe non conoscere tutti i passaggi intermedi che sono avvenuti sin dall'apertura, perché se tutti coloro che hanno trasferito, hanno consegnato il libretto, hanno ottemperato le disposizioni dell'antiriciclaggio e quindi sono stati comunicati alla banca i dati del cessionario, la data e l'accettazione, la banca ha conoscenza dell'anagrafica. ma viceversa potrebbero esserci state anche delle mancate comunicazioni. Il libretto ha comunque circolato, si presenta l'ultimo soggetto, che è una persona alla banca non nota, sconosciuta rispetto ai precedenti passaggi, e quindi sotto questo profilo la banca verifica un'infrazione. Senta, allora, quindi ammettendo che io li abbia aperti così per fare un regalo ai miei nipoti, che sono ancora minorenni, quindi magari ancora non hanno così questa velleità di andare in banca a fare amicizia per affrontare questi primi aspetti della loro emancipazione finanziaria, ma ammettendo che siano maggiorenni, no, dottor Forte, possono andare loro a regolarizzare queste posizioni? Beh, noi dobbiamo tenere in considerazione che dal 4 luglio in avanti l'operazione può essere fatta esclusivamente dal soggetto che è nell'anagrafica della banca, e questo per una ragione molto semplice, perché dal 4 luglio in avanti non solo le banche non possono aprire, non possono emettere libretti se non nominativi, ma dal 4 luglio per i soggetti che hanno libretti al portatore non è possibile neppure effettuare il trasferimento. Certo. Allora, se il 6 luglio si presenta un soggetto diverso rispetto a chi è in anagrafica, vuol dire che di fatto il libretto è stato ceduto, e quindi dal 4 luglio si deve presentare solo il soggetto che è dell'anagrafica. Se si presenta un soggetto che non è in anagrafica, non è che la banca gli possa impedire di prelevare, ad esempio, quel soggetto può prelevare, ma la banca segnalerà l'infrazione al Ministero dell'Economia. Ecco, quindi andando alle conseguenze di chi non si mette in regola, quali sono? C'è un ventaglio molto ampio di, non lo so, sanzioni nel tempo? Una sanzione amministrativa, ovviamente, per effetto della segnalazione che farà la banca, che è riuscirà facilmente a riscontrare la violazione, perché chiaramente nel momento in cui vado a prelevare, siamo a posto 4 luglio, la banca mi identifica sulla base anche delle disposizioni antiriciclaggio, sappiamo che ci sono delle disposizioni molto stringenti, cosiddette di adeguata verifica della clientela, questo è il motivo perché la banca ogni anno, ogni due anni, anche ai normali correntisti, e riceviamo una telefonata e ci chiede periodicamente un documento, perché deve fare una verifica adeguata nel corso del tempo, quindi mi identifica, riscontra che sono un soggetto diverso rispetto a chi è censito, e allora segnala e ricevo l'infrazione. Senta, non può impedirmi di prelevare, però. Nicola, se ci capitasse di ritrovare un libretto, e adesso andiamo al caso di Riccardo da Treviso, a cui è successo proprio questo, però è una questione che risale un po' indietro nel tempo, prima di andare a Riccardo vorrei chiederle, rifacendo sempre l'esempio che ho portato avanti per tutto l'approfondimento, me e i miei nipoti, se loro ritrovassero questo libretto di risparmio, io ho avuto una crisi di memoria, non mi ricordo più di aver fatto questo gesto nei loro confronti, e loro lo ritrovano un documento in un cassetto, vogliono andare a capire con la banca cosa fare. C'è il concreto rischio che nel momento in cui vanno in banca dal 4 luglio, vogliono prelevare o versare, io sarò sicuramente un soggetto diverso rispetto a quello che è censito, e il rischio della sanzione più che il rischio diventa una certezza. Quindi addirittura paradossalmente la persona che va a rivendicare la titolarità di questo rapporto, volendo in realtà la vorrebbe chiarire, ma in realtà rischia una sanzione. È perché dal 4 luglio... Se vado prima? Se vado prima... Devi andare velocemente. Se vado domani, dopo aver sentito Deborah oggi, dico, oddio, sono io, vado. Allora, se vado prima devo tenere in considerazione quella norma che ricordavo dell'antiriciclaggio, secondo cui il trasferimento del libretto doveva essere comunque comunicato alla banca entro 30 giorni, questo lo prevedeva l'articolo 49 del decreto legislativo 231, e quindi ne consegue che se il libretto è stato trasferito e non è stata effettuata la comunicazione entro 30 giorni, comunque ho violato una disposizione allora in vigore. Che situazione complicata. Sì, quasi perderlo, guarda. Riccardo da Treviso, velocemente, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e complimenti per la trasmissione. Sì. Allora, la questione è semplice, è stato ritrovato da mia suocera un libretto che l'aveva aperto sua madre nel 45 con 500 lire. E da informazioni online ho scoperto che essendo al portatore è confluito nella Consap, E ho cercato informazioni e bisogna richiedere tramite la coordinata il risveglio, sì, esatto. Esatto. E quindi Riccardo lo ha fatto? No, allora magari ci scriva nel dettaglio, perché con Consap siamo in collegamento e in genere ci aiutano per questi casi. Lo possiamo risvegliare, Nicola, forte? No, chiedo scusa, non ho sentito bene il quesito. Allora, glielo rifaccio in privato perché stiamo chiudendo. Libretto di risparmio al portatore del 45 è stato trovato da sua suocera, glielo aveva fatto, glielo aveva aperto la mamma, per cui attraverso il sito della Consap ha scoperto che in realtà potrebbe anche riscuoterlo, però qui c'è una complicazione in più perché la banca presso la quale era stato aperto è stata assorbita da un'altra, quindi Riccardo ci scriva perché qua le cose si è un po' più complicato. Sempre. Giovanni da Forlì, chi era il ministro che si è inventato i libretti al portatore? Guardi, mi sembra che sia proprio Quintino Sella. È proprio lui, guardi. Le sembra bene. Ministro delle Finanze della destra liberale, sì. Insomma, si è inventato questa cosa molto interessante che però adesso è destinata a scomparire dal nostro ordinamento. Eccola di nuovo, i tuoi due. Per la felicità di Fedez e J-Ax. Guarda che salto nella storia che abbiamo fatto. A domani, grazie a Nicola Forte per essere stato con noi. Guardi un po' con che saluto oggi la congediamo e noi torniamo domani con Cuore e Denari. Buona giornata a tutti.